Ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel Griso, l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto ad amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo, e ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancavano dei vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri, e tra le altre cose aveva fatto ridere tanto alla compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio portato via dalla peste 2 giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola arrivati a casa fu d'ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolta, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri, e gli stava alla lontana, perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistare, come si dice, l'occhio medico. «Sto bene, veh», disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone». «Ma ho bevuto forse un po' troppo, c'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va, ho un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi, che m'acceca, mi dà una noia». «Scherzi della vernaccia», disse il Griso, tenendosi sempre alla larga, «ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene». «Hai ragione, se posso dormire, del resto sto bene». «Metti qui vicino a buon conto quel campanello. Se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa, e sta attento, beh, se mai senti suonare. Ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume», riprese poi intanto che il Griso eseguiva l'ordine avvicinandosi meno che poteva. «Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio!» Il Griso prese il lume e, augurata la buonanotte al padrone, se ne andò in fretta mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna, le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio si svegliava con un riscossone, come se uno, per dispetto, fosse venuto a dargli una tentennata, e sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine. Avrebbe voluto poter dar loro tutta la colpa, ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte, che entrava, per dir così, da tutti i sensi, che s'era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio, giacché era ancor più facile prenderla in scherzo che passarla sotto silenzio. La peste. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente s'addormentò e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. E d'uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in mezzo a una folla, di trovarcisi che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero, in quel tempo specialmente, e n'era arrabbiato. Guardava i circostanti, erano tutti visi gialli, distrutti, con cert'occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate, tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi, e da rotti si vedevano macchie e buboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta che era lontana, lontana, e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi, restringendosi per non toccar quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte, ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare e nemmeno d'avere inteso. Anzi, gli stavano più addosso e soprattutto gli pareva che qualcheduno di loro, con le gomita o con l'altro, lo pigiasse a sinistra, tra il cuore e l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante. E se si storceva per veder di liberarsene, subito un nuovo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo. Infuriato, volle metter mano alla spada e appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo, ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta più forte. Strepitava, era tutto affannato e voleva gridar più forte quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte. Guardò anche lui, vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso, liscio e luccicante. Poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto fuori del parapetto fino alla cintola. Fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a Don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo come per slanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria. Una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un grand'urlo e si destò. Lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero. Stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprir ben gli occhi, che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia quanto quella della candela la sera avanti. Riconobbe il suo letto, la sua camera. Si raccapezzò che tutto era stato un sogno. La chiesa, il popolo, il frate, tutto sparito. Tutto fuorché una cosa. Quel dolore dalla parte sinistra. Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta, affannosa, negli orecchi un ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro, una gravezza in tutte le membra, peggio di quando era andata a letto. Esitò qualche momento prima di guardar la parte dove aveva il dolore. Finalmente la scoprì, ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo. L'uomo si vide perduto. Il terrore della morte l'invase e con un senso per avventura più forte, il terrore di diventar preda dei monatti, d'esser portato, buttato al lazzeretto, e cercando la maniera d'evitare quest'orribile sorte sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi, sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa se non quanto bastasse per darsi alla disperazione. Afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve subito il griso, il quale stava allerta. Si fermò a una certa distanza dal letto, guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che la sera aveva congetturato. «Griso», disse Don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere, «tu sei sempre stato il mio fido». «Sì, signore, t'ho sempre fatto del bene, per sua bontà. Di te mi posso fidare». «Diavolo, sto male, Griso. Me ne ero accorto. Se guarisco, ti faccio del bene ancor più di quello che te n'ho fatto per il passato». Il Griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. «Non voglio fidarmi d'altri che di te», riprese Don Rodrigo. «Fammi un piacere, Griso». «Comandi», disse questo rispondendo con la formula solita a quell'insolita. «Sai dove sta di casa il chiodo, chirurgo? Lo so benissimo. È un galantuomo che, chi lo paga bene, tiene segreti gli ammalati. Va a chiamarlo, digli che gli darò 4-6 scudi per visita, di più, se di più ne chiede, ma che venga qui subito e fa la cosa bene, che nessuno se ne avveda». «Ben pensato», disse il Griso, «vo e torno subito». «Senti, Griso, dammi prima un po' d'acqua, mi sento un'arsione che non ne posso più». «No, signore», rispose il Griso, «niente senza il parere del medico. Son mali bisbetici, non c'è tempo da perdere, stia quieto, in 3 salti son qui col chiodo». Così detto uscì, raccostando l'uscio. Don Rodrigo, tornato sotto, l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo. Contava i passi, calcolava il tempo. Ogni tanto ritornava a guardare il suo bubbone, ma voltava subito la testa dall'altra parte con ribrezzo. Dopo qualche tempo cominciò a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava, e quello sforzo d'attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri. Tutto a un tratto sente uno squillo lontano, ma che gli par che venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento. Lo sente più forte, più ripetuto, e insieme uno stropiccio di piedi. Un orrendo sospetto gli passa per la mente. Si rizza a sedere e si mette ancor più attento. Sente un rumor cupo nella stanza vicina, come d'un peso che venga messo giù con riguardo. Butta le gambe fuori del letto, come per alzarsi. Guarda all'uscio, lo vede aprirsi. Vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestiti rossi, due facce scomunicate, due monatti in una parola. Vede mezza la faccia del griso che, nascosto dietro un battente socchiuso, riman lì a spiare. Ah, traditore infame, via, canaglia, biondino, Carlotto, aiuto, sono assassinato! Grida Don Rodrigo, caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola, la afferra, la tira fuori. Ma al primo suo grido i monatti avevano preso la rincorsa verso il letto. Il più pronto gli è addosso prima che lui possa far nulla. Gli strappa la pistola di mano, la getta lontano, lo butta a giacere e lo tien lì, gridando, con un versaccio di rabbia insieme di scherno. Ah, birbone, contro i monatti, contro i ministri del tribunale, contro quelli che fanno l'opera di misericordia! «Tienilo bene finché lo portiamo via», disse il compagno andando verso uno scrigno. E in quella il griso entrò e si mise con colui a scassinar la serratura. «Scellerato!» urlò Don Rodrigo, guardandolo per di sotto all'altro che lo teneva e divincolandosi tra quelle braccia forzute. «Lasciatemi ammazzar quell'infame!» diceva quindi ai monatti. «E poi fate di me quel che volete!» Poi ritornava a chiamar con quanta voce aveva gli altri suoi servitori, ma era inutile, perché l'abominevole griso li aveva mandati lontano, con finti ordini del padrone stesso, prima d'andare a fare ai monatti la proposta di venire a quella spedizione e dividere le spoglie. Sta buono, diceva allo sventurato Rodrigo l'aguzzino che lo teneva puntellato sul letto, e voltando poi il viso ai due che facevan bottino, gridava: fate le cose da galantuomini. Tu, mugghiava Don Rodrigo verso il griso che vedeva affaccendarsi, a spezzare, a cavar fuori danaro, roba, a far le parti. Tu, dopo, a diavolo dell'inferno, posso ancora guarire. Il griso non fiatava e neppure, per quanto poteva, si voltava dalla parte di dove venivano quelle parole. «Tienilo forte!» diceva l'altro monatto. «È fuor di sé!» Ed era ormai vero. Dopo un grand'urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde, tutto a un tratto, rifinito e stupido. Guardava però ancora come incantato e ogni tanto si riscuoteva o si lamentava. I monatti lo presero, uno per i piedi e l'altro per le spalle, e andarono a posarlo su una barella che avevano lasciata nella stanza accanto. Poi uno tornò a prender la preda, quindi, alzato il miserabile peso, lo portarono via. Il griso rimase a scegliere in fretta quel di più che potesse far per lui. Fece di tutto un fagotto e se ne andò. Aveva bensì avuto cura di non toccar mai i monatti, di non lasciarsi toccar da loro, ma in quell'ultima furia del frugare aveva poi presi vicino al letto i panni del padrone e li aveva scossi senza pensare ad altro per vedere se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo che, mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto dei brividi, gli s'abbagliarono gli occhi, gli mancarono le forze e cascò. Abbandonato da compagni, andò in mano dei monatti che, spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro sul quale spirò prima d'arrivare al lazzeretto dove era stato portato il suo padrone. Lasciando ora questo nel soggiorno dei guai, dobbiamo andare in cerca d'un altro, la cui storia non sarebbe mai stata intralciata con la sua se lui non l'avesse voluto per forza. Anzi, si può dir di certo che non avrebbero avuto storia nell'uno né l'altro, Renzo, voglio dire, che abbiamo lasciato al nuovo filatoio sotto il nome d'Antonio Rivolta. C'era stato 5 o 6 mesi, salvo il vero, dopo i quali, dichiarata l'inimicizia tra la Repubblica e il re di Spagna e cessato quindi ogni timore di ricerche e di impegni dalla parte di qui, Bortolo s'era dato premura d'andarlo a prendere e di tenerlo ancora con sé, e perché gli voleva bene, e perché Renzo, come giovin di talento e abile nel mestiere, era in una fabbrica di grande aiuto al factotum, senza poter mai aspirare a divenirlo lui per quella benedetta disgrazia di non saper tener la penna in mano. Siccome anche questa ragione c'era entrata per qualche cosa, così abbiamo dovuto accennarla. Forse voi vorreste un Bortolo più ideale, non so che dire, fabbricatevelo, quello era così. Renzo era poi sempre rimasto a lavorare presso di lui. Più di una volta, e specialmente dopo aver ricevuta qualcheduna di quelle benedette lettere da parte d'Agnese, gli era saltato il grillo di farsi soldato e finirla, e le occasioni non mancavano. Che, appunto, in quell'intervallo di tempo, la Repubblica aveva avuto bisogno di far gente. La tentazione era qualche volta stata per Renzo tanto più forte che s'era anche parlato di invadere il Milanese. E naturalmente a lui pareva che sarebbe stata una bella cosa tornare in figura di vincitore a casa sua, riveder Lucia e spiegarsi una volta con lei. Ma Bortolo, con buona maniera, aveva sempre saputo smontarlo da quella risoluzione. Per alquanti giorni Renzo si tenne in esercizio per sperimentare le sue forze e accrescerle, e appena gli parve di poter far la strada, si dispose a partire. Si mise sotto panni una cintura con dentro quei 50 scudi che non aveva mai intaccati e dei quali non aveva mai fatto parola neppur con Bortolo. Prese alcuni altri pochi quattrini che aveva messi da parte giorno per giorno, risparmiando su tutto. Prese sotto il braccio un fagottino di panni. Si mise in tasca un ben servito che s'era fatto fare a buon conto dal secondo padrone sotto il nome d'Antonio Rivolta. In un taschino dei calzoni si mise un coltellaccio che era il meno che un galantuomo potesse portare a quei tempi, e s'avviò. Agli ultimi d'agosto, 3 giorni dopo che Don Rodrigo era stato portato al lazzeretto. Prese verso Lecco, volendo, per non andar così alla cieca a Milano, passar dal suo paese dove sperava di trovare Agnese viva e di cominciare a saper da lei qualcheduna delle tante cose che si struggeva di sapere. I pochi guariti dalla peste erano, in mezzo al resto della popolazione, veramente come una classe privilegiata. Una gran parte dell'altra gente languiva o moriva, e quelli che erano stati fino allora illesi dal morbo ne vivevano in continuo timore. Andavano riservati, guardinghi, con passi misurati, con visi sospettosi, con fretta ed esitazione insieme, che tutto poteva essere contro di loro arma di ferita mortale. Quegli altri, all'opposto, sicuri a un dipresso del fatto loro, giacché aver 2 volte la peste era caso piuttosto prodigioso che raro, giravano per mezzo al contagio franchi e risoluti, come i cavalieri d'un'epoca del Medioevo, ferrati fin dove ferro ci poteva stare e sopra palafreni accomodati anch'essi per quanto era fattibile. In quella maniera andavano a zonzo, donde quella loro gloriosa denominazione d'erranti, a zonzo e all'avventura, in mezzo a una povera marmaglia pedestre di cittadini e di villani che, per ribattere e ammortire i colpi, non avevano indosso altro che cenci. Bello, savio ed utile mestiere, mestiere proprio da far la prima figura in un trattato d'economia politica. Con una tale sicurezza, temperata però dalle inquietudini che il lettore sa, e contristata dallo spettacolo frequente, dal pensiero incessante della calamità comune, andava Renzo verso casa sua sotto un bel cielo e per un bel paese, ma non incontrando, dopo lunghi tratti di tristissima solitudine, se non qualche ombra vagante piuttosto che persona viva o cadaveri portati alla fossa senza onor d'esequie, senza canto, senza accompagnamento. A mezzo circa della giornata si fermò in un boschetto a mangiare un po' di pane di companatico che aveva portato con sé. Frutte n'aveva a sua disposizione lungo la strada, anche più del bisogno: fichi, pesche, susine, mele, quante ne avesse volute. Bastava che entrasse nei campi a coglierne o a raccattarle sotto gli alberi, dove ce n'era come se fosse grandinato, già che l'anno era straordinariamente abbondante di frutte specialmente, e non c'era quasi chi se ne prendesse pensiero. Anche l'uve nascondevano, per dir così, i pampani ed erano lasciate in balia del primo occupante. Verso sera scoprì il suo paese. A quella vista, quantunque ci dovesse essere preparato, si sentì dare come una stretta al cuore. Fu assalito in un punto da una folla di rimembranze dolorose e di dolorosi presentimenti. Gli pareva d'aver negli orecchi quei sinistri tocchi a martello che l'avevano come accompagnato, inseguito, quando era fuggito da quei luoghi, e insieme sentiva, per dir così, un silenzio di morte che ci regnava attualmente. Un turbamento ancor più forte provò allo sboccar sulla piazzetta davanti alla chiesa, e ancora peggio s'aspettava al termine del cammino, che, dove aveva disegnato da andare a fermarsi, era a quella casa che era stato solito altre volte di chiamarla casa di Lucia. Ora non poteva essere tutt'al più che quella d'Agnese, e la sola grazia che sperava dal cielo era di trovarcela in vita e in salute. E in quella casa si proponeva di chiedere alloggio, congetturando bene che la sua non dovesse essere più abitazione che da topi e da faine. Non volendo farsi vedere, prese per una viottola di fuori, quella stessa per cui era venuto in buona compagnia quella notte così fatta per sorprendere il curato. A mezzo circa c'era da una parte la vigna e dall'altra la casetta di Renzo, sicché, passando, potrebbe entrare un momento nell'una e nell'altra a vedere un poco come stesse il fatto suo. Andando, guardava innanzi, ansioso, insieme e timoroso di veder qualcheduno, e dopo pochi passi vide infatti un uomo in camicia, seduto in terra, con le spalle appoggiate a una siepe di gelsomini, in un'attitudine d'insensato, e a questa, e poi anche alla fisionomia, gli parve di raffigurare quel povero mezzo scemo di Gervaso che era venuto per secondo testimonio alla sciagurata spedizione. Ma essendosegli avvicinato, dovette accertarsi che era invece quel Tonio così sveglio che ce l'aveva condotto. La peste, togliendogli il vigore del corpo insieme della mente, gli aveva svolto in faccia e in ogni suo atto un piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato fratello. «Oh, Tonio!» gli disse Renzo fermandosegli davanti. «Sei tu?» Tonio alzò gli occhi, senza muover la testa. «Tonio, non mi riconosci?» «A chi la tocca», rispose Tonio, rimanendo poi con la bocca aperta. «L'hai addosso, povero Tonio, ma non mi riconosci più?» «A chi la tocca», replicò quello con un certo sorriso sciocco. Renzo, vedendo che non ne caverebbe altro, seguitò la sua strada più contristato. Ed ecco spuntar da una cantonata e venì davanti una cosa nera, che riconobbe subito per Don Abbondio. Camminava adagio adagio, portando il bastone, come chi n'è portata a vicenda. E di mano in mano che s'avvicinava, sempre più si poteva conoscere nel suo volto pallido e smunto e in ogni atto che anche lui doveva aver passata la sua burrasca. Guardava anche lui, gli pareva e non gli pareva, vedeva qualcosa di forestiero nel vestiario, ma era appunto forestiero di quel di Bergamo. E lui senz'altro disse tra sé, e alzò le mani al cielo con un movimento di maraviglia scontenta, restandogli sospesi in aria il bastone che teneva della destra, e si vedevano quelle povere braccia ballar nelle maniche dove altre volte stavano appena, per l'appunto. Renzo gli andò incontro allungando il passo e gli fece una riverenza che, sebbene si fossero lasciati, come sapete, era però sempre il suo curato. «Siete qui, voi!» esclamò Don Abbondio. «Son qui, come lei vede. Si sa niente di Lucia. Che volete che ne sappia? Non se ne sa niente. È a Milano, seppure è ancora in questo mondo. Ma a voi è Agnese, è viva. Può essere, ma chi volete che lo sappia? Non è qui. Ma dov'è? È andata a starsene nella Valsassina, da quei suoi parenti, a Pasturo. Sapete bene che là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui. Ma voi, dico, questa la mi dispiace, e il padre Cristoforo è andato via, che è un pezzo, ma lo sapevo, me l'avevano fatto scrivere, domandavo se per caso fosse tornato da queste parti. Oh, giusto, non se n'è più sentito parlare, ma voi, la mi dispiace anche questa, ma voi, dico, cosa venite a far da queste parti, per l'amor del cielo? Non sapete che bagattella di cattura, cosa mi importa? Hanno altro da pensare. Ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei e non si sa proprio cosa volete vedere, che orora non c'è più nessuno, non c'è più niente. E dico, con quella bagatella di cattura, venir qui, proprio in paese, in bocca al lupo, c'è giudizio? Fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi e che vi parla per l'amore che vi porta. Legatevi le scarpe bene e, prima che nessuno vi veda, tornate di dove siete venuto e se siete stato visto, tanto più tornatevene di corsa. Vi pare che sia aria per voi questa? Non sapete che sono venuto a cercarvi, che hanno frugato, buttato sotto sopra. Lo so, purtroppo, birboni, ma dunque, ma se le dico che non ci penso, e colui è vivo ancora, è qui. Vi dico che qui non c'è nessuno, vi dico che non pensiate alle cose di qui, vi dico che... Domando se è qui colui. Oh santo cielo, parlate meglio. Possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco dopo tante cose? C'è o non c'è? Non c'è, via. Ma è la peste, figliolo, la peste. Chi è che vada in giro di questi tempi? Se non ci fosse altro che la peste in questo mondo, dico per me, l'ho avuta e son franco. Ma dunque, non sono avvisi questi? Quando se n'è scampata una di questa sorte, mi pare che si dovrebbe ringraziare il cielo, e lo ringrazio bene, e non andarne a cercare dell'altre, dico, fate a modo mio. L'ha avuta anche lei, signor curato, se non mi inganno. Se l'ho avuta, perfida e infame è stata. Sono qui per miracolo. Basta dire che m'ha conciato in questa maniera, che vedete... Ora avevo proprio bisogno d'un po' di quiete per rimettermi in tono. Via, cominciava a stare un po' meglio. In nome del cielo, cosa venite a far qui? Tornate sempre. Là con questo tornare, lei. Per tornare tanto n'aveva a non muovermi. Dice, cosa venite, oh bella. Venga anch'io a casa mia, casa vostra. Mi dica, ne sono morti molti qui. Esclamò Don Abbondio. E cominciando da Perpetua, nominò una filastrocca di persone e di famiglie intere. Renzo s'aspettava purtroppo qualcosa di simile, ma a sentir tanti nomi di persone che conosceva, d'amici, di parenti, stava addolorato, col capo basso, esclamando ogni momento «Poverino, poverina, poverini!» «Vedete?» continuò Don Abbondio. «E non è finita! Se quelli che restano non mettono un giudizio questa volta e scacciare tutti i grilli dalla testa, non c'è più altro che la fine del mondo!» Non dubiti che già non fo conto di fermarmi qui. Sia ringraziato il cielo che l'aveva entrata e già si intende, fate ben conto di ritornare nel Bergamasco. Di questo non si prenda pensiero. Che? Non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo? Lei non ci pensi, dico, tocca a me. Non son più bambino, ho l'uso della ragione. Spero che a buon conto non dirà a nessuno d'avermi visto. È sacerdote, sono una sua pecora, non mi vorrà tradire. Ho inteso, disse Don Abbondio, sospirando stizzosamente. «Ho inteso! Volete rovinarvi voi e rovinarmi me! Non vi basta di quelli che avete passate voi! Non vi basta di quelli che ho passato io! Ho inteso!» E continuando a borbottare tra i denti quest'ultime parole, riprese per la sua strada. Renzo rimase lì, tristo e scontento, a pensare dove andrebbe a fermarsi. In quella enumerazione di morti fattagli da Don Abbondio c'era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio, salvo un giovinotto dell'età di Renzo a un dì presso e suo compagno fin da piccino. La casa era a pochi passi fuori del paese. Pensò ad andar lì. E andando, passò davanti alla sua vigna e già dal dì fuori poté subito argomentare in che stato la fosse. Una vetticciola, una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro. Se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S'affacciò all'apertura del cancello, non c'erano più neppure i gangheri, diede un'occhiata in giro. Povera vigna. Per due inverni di seguito la gente del paese era andata a far legna nel luogo di quel poverino, come dicevano, viti, gelsi, frutti d'ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio, tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell'antica cultura, giovani tralci, in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia dei filari desolati, qua e là rimessiticci, oggetti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini. Ma anche questo si vedeva sparso, soffogato, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione nata e cresciuta senza l'aiuto della man dell'uomo. Era una marmaglia ad ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, da vene salvatiche, da maranti verdi, di radicchielle, da cetoselle, di panicastrelle e d'altre tali piante. Di quelle, voglio dire, di cui il contadino d'ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli che facevano a soverchiarsi l'uno con l'altro nell'aria o a passarsi avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi, insomma, il posto per ogni verso. Una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di 100 colori, di 100 forme, di 100 grandezze, spighette, pagnocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n'era alcune, le più rilevante e vistose, non però migliori almeno la più parte, l'uva turca, più alta di tutte, coi suoi rami allargati, rosseggianti, coi suoi pomposi foglioni verde cupi, alcuni già orlati di porpora, coi suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazie al basso, più su di porporine, poi di verdi, e in cima di fiorellini biancastri, il tasso barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto all'aria, e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli, cardi, ispidi nei rami, nelle foglie, nei calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggeri. Qui una quantità di bilucchioni arrampicati e avvolti a nuovi rampolli d'un gelso, li avevano tutti ricoperti delle loro foglie ciondoloni, e spenzolavano dalla cima di quegli le lor campanelle candide e molli. Là una zucca salvatica, coi suoi chicchi vermigli, s'era avviticchiata ai nuovi tralci d'una vite, la quale, cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella, e mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravan giù pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendono l'uno con l'altro per appoggio. Il rovo era per tutto. Andava da una pianta all'altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o li stendeva, secondo gli riuscisse, e attraversato davanti al limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo anche al padrone. Ma questo non si curava d'entrare in una tal vigna, e forse non istette tanto a guardarla, quanto noi a farne questo po' di schizzo. Tirò di lungo. Poco lontano c'era la sua casa. Attraversò l'orto, camminando fino a mezza gamba tra le erbacce di cui era popolato, coperto, come la vigna. Mise piede sulla soglia d'una delle due stanze che c'era a terreno. Al rumore dei suoi passi, al suo affacciarsi, uno scompiglio, uno scappare incrocicchiato di topacci, un cacciarsi dentro il sudiciume che copriva tutto il pavimento. Era ancora il letto dell'anziché Necchi. Diede un'occhiata alle pareti, scrostate, imbrattate, affumicate, alzò gli occhi al palco. Un parato di ragnateli, non c'era altro. Se ne andò anche di là, mettendosi le mani nei capelli. Tornò indietro, rifacendo il sentiero che aveva aperto lui un momento prima. Dopo pochi passi, prese un'altra straducola a mancina che metteva nei campi e, senza vederne sentire anima vivente, arrivò fino alla casetta dove aveva pensato di fermarsi. Già principiava a farsi buio. L'amico era sull'uscio, a sedere su un pacchetto di legno, con le braccia incrociate, con gli occhi fissi al cielo, come un uomo sbalordito dalle disgrazie e inselvatichito dalla solitudine. Sentendo un calpestio, si voltò a guardar chi fosse e, a quel che gli parve di vedere così al barlume, tra i rami e le fronde, disse ad alta voce, rizzandosi e alzando le mani: «Non ci son che io? Non ho fatto abbastanza ieri? Lasciatemi un po' stare, che sarà anche questa un'opera di misericordia!» Renzo, non sapendo cosa volesse dir questo, gli rispose, chiamandolo per nome. «Renzo!» disse quello, esclamando insieme e interrogando. «Proprio!» disse Renzo. «Sei tu! Sei proprio tu!» disse l'amico quando furono vicini. «Oh, che gusto ho di rivederti! E chi l'avrebbe pensato? T'avevo preso per Paolin de Morti, che vien sempre a tormentarmi perché vado a sotterrare. Sai che sono rimasto solo, solo. Solo, come un romito.» «Lo so, purtroppo», disse Renzo. «È così. barattando e mescolando in fretta saluti, domande e risposte, entrarono insieme nella casuccia. E lì, senza sospendere i discorsi, l'amico si mise in faccende per fare un po' d'onore a Renzo, come si poteva così all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al fuoco e cominciò a far la polenta, ma cede poi il mattarello a Renzo perché la dimenasse e se ne andò dicendo: «Sono rimasto solo, ma sono rimasto solo». Tornò con un piccolo secchio di latte, con un po' di carne secca, con un paio di raveggioli, con fichi e pesche. E posato il tutto, scodellata la polenta sulla tafferia, si misero insieme a tavola, ringraziandosi scambievolmente l'uno della visita, l'altro del ricevimento. E dopo un'assenza di forse 2 anni, si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avessero mai saputo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno. Perché all'uno e all'altro, dice qui il manoscritto, erano toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza, tanto quella che si sente quanto quella che si trova negli altri. Certo, nessuno poteva tenere presso di Renzo il luogo d'Agnese né consolarlo della di lei assenza, non solo per quell'antica e speciale affezione, ma anche perché, tra le cose che a lui premeva di decifrare, ce n'era una di cui essa sola aveva la chiave. Stette un momento tra due, se dovesse continuare il suo viaggio o andar prima in cerca d'Agnese, giacché ne era così poco lontano, ma considerato che della salute di Lucia Agnese non ne saprebbe nulla, restò nel primo proposito ad andare addirittura a levarsi questo dubbio, a aver la sua sentenza e di portare poi lui le nuove alla madre. Però anche dall'amico seppe molte cose che ignorava e di molto venne in chiaro che non sapeva bene sui casi di Lucia e sulle persecuzioni che gli avevano fatte a lui e come Don Rodrigo se n'era andato con la coda tra le gambe e non s'era più veduto da quelle parti. Insomma, su tutto quell'intreccio di cose. Seppe anche, e non era per Renzo cognizione di poca importanza, come fosse proprio il casato di Don Ferrante, che Agnese gliel'aveva bensì fatto scrivere dal suo segretario. Ma sa il cielo come era stato scritto, e l'interprete bergamasco, nel leggergli la lettera, ne aveva fatta una parola tale che, se Renzo fosse andato con essa a cercare ricapito di quella casa in Milano, probabilmente non avrebbe trovato persona che indovinasse di chi voleva parlare. Eppure quello era l'unico filo che avesse per andare in cerca di Lucia. In quanto alla giustizia, poté confermarsi sempre più che era un pericolo abbastanza lontano per non darsene gran pensiero. Il signor Podestà era morto di peste. Chissà quando se ne sarebbe mandato un altro. Anche la sbirraglia se n'era andata la più parte. Quelli che rimanevano avevano tutt'altro da pensare che alle cose vecchie. Raccontò anche lui all'amico le sue vicende. E n'ebbe in contraccambio 100 storie, del passaggio dell'esercito, della peste, d'untori, di prodigi. «Son cose brutte», disse l'amico, accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata, «cose che non si sarebbe mai creduto di vedere, cose da levarvi l'allegria per tutta la vita, ma però a parlarne tra amici è un sollievo». Allo spuntar del giorno erano tutte e 2 in cucina. Renzo in arnese da viaggio, con la sua cintura nascosta sotto il farsetto e il coltellaccio nel taschino dei calzoni. Il fagottino, per andar più lesto, lo lasciò in deposito presso all'ospite. «Se la mi va bene», gli disse, «se la trovo in vita, se...» «Basta, ripasso di qui. Corro a Pasturo a dar la buona nuova a quella povera Agnese. E poi... Ma se per disgrazia che Dio non voglia... Allora, non so quel che farò, non so dove anderò. Certo, da queste parti non mi vedete più». E così parlando, ritto sulla soglia dell'uscio, con la testa per aria, guardava con un misto di tenerezza ed accoramento l'aurora del suo paese, che non aveva più veduta da tanto tempo. L'amico gli disse, come s'usa, di sperar bene. Volle che prendesse con sé qualcosa da mangiare, l'accompagnò per un pezzetto di strada e lo lasciò con nuovi auguri. Renzo si incamminò con la sua pace, bastandogli d'arrivar vicino a Milano in quel giorno per entrarci il seguente, di buon'ora, e cominciar subito la sua ricerca. Il viaggio fu senza accidenti e senza nulla che potesse distrar Renzo dai suoi pensieri, fuorché le solite miserie e malinconie. Come aveva fatto il giorno avanti, si fermò a suo tempo in un boschetto a mangiare un boccone e a riposarsi. Passando per Monza, davanti a una bottega aperta dove c'erano dei pani in mostra, ne chiese 2. Per non rimanere sprovvisto in ogni caso, il fornaio gli intimò di non entrare e gli porse su una piccola pala una scodelletta con dentro acqua e aceto, dicendogli che buttasse lì i danari. E fatto questo, con certe molle, gli porse l'uno dopo l'altro i due pani che Renzo si mise uno per tasca. Verso sera arriva a Greco, senza però saperne il nome. Ma tra un po' di memoria dei luoghi che gli era rimasta dell'altro viaggio e il calcolo del cammino fatto da Monza in poi, congetturando che doveva essere poco lontano dalla città, uscì dalla strada maestra per andar nei campi in cerca di qualche cascinotto e lì passar la notte, che con osterie non si voleva impicciare. Trovò meglio di quel che cercava. Vide un'apertura in una siepe che cingeva il cortile d'una cascina. Entrò a buon conto. Non c'era nessuno. Vide da un canto un gran portico con sotto del fieno ammontato e a quello appoggiata una scala a mano. Diede un'occhiata in giro e poi salì alla ventura. S'accomodò per dormire e infatti s'addormentò subito per non destarsi che all'alba. Allora andò carpon carponi verso l'orlo di quel gran letto, mise la testa fuori e, non vedendo nessuno, scese di dov'era salito, uscì di dov'era entrato, s'incamminò per Viottole, prendendo per la sua stella polare il Duomo. E dopo un brevissimo cammino venne a sbucar sotto le mura di Milano, tra Porta Orientale e Porta Nuova, e molto vicino a questa. Alessandro Benvenuti ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it. Per il podcast radio3.rai.it.